Cialtroni nello spazio, puntata numero 11, spazio.circolab.net per il nostro sito. Oppure radio.circolab.net. Marco, che cos'è Cialtroni nello spazio? È una trasmissione settimanale che parla di informatica libera. Un giorno te lo scriveremo e vedremo di risolvere questa mancanza. Vabbè, informatica libera e diritti digitali e un sacco di cose. Soprattutto oggi daremo degli aggiornamenti e delle news anche per delle vicende che abbiamo già seguito in passato, della trasmissione appunto odierna. Parleremo di censura, parleremo di libertà digitali, parleremo di annunci che vengono fatti da programmatori abbastanza noti nel mondo del free software. Parleremo di privacy, di regimi di monopolio nella musica. Tutto questo sulle frequenze libere di Radio Onda d'Urto. E anche la musica è libera. Che cosa stiamo ascoltando, Ale? Questo è il nostro solito tappetino. Sono i Chemical Brothers con la versione remixed presente sul loro sito www.chemicalbrothersremixed.com. Ma cominciamo subito con una notizia che è uscita su Indie Media e presa dal sito della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Una notizia che sicuramente avrà delle ripercussioni a breve. Per il momento la diamo così com'è, poi vedremo nei prossimi giorni come si svilupperà. L'11 gennaio 2006 il GIP di Treviso ha condannato un trentenne veneto a 3.660 euro di multa, dei quali 2660 in sostituzione di 2 mesi e 10 giorni di reclusione per violazione della legge sul diritto d'autore. Si tratta della prima condanna in Italia per quanto riguarda la pura e semplice condivisione attraverso rete peer-to-peer di materiale protetto da copyright. Ricordiamo che in Italia sono già state comminate sentenze riguardo alla diffusione di materiale digitale protetto da copyright, però sono sempre state a carico di persone che si adoperavano per costruire delle vere e proprie reti, quindi implementando dei server su cui erano fisicamente stipati questi file. In questo caso si tratterebbe, perché i dettagli non sono ancora noti, aspettiamo di avere maggiori notizie, si tratterebbe di un normale utilizzatore di rete peer-to-peer che condivideva un gran numero di brani, però si trattava di un semplice utente. E la condanna è stata emessa quantificando in almeno 250.000 utenti. Ma scusa, 2.500 utenti, quindi con relative copie pirata diffuse di questi brani. E staremo a vedere, insomma. È la prima applicazione, non la prima, però un'applicazione della nuova, vabbè, di ormai 2 anni fa, legge, il famoso decreto Urbani, tanto criticato appunto per le conseguenze penali che vedevano, cioè le conseguenze penali che possono essere appunto qualcuno che condivida della musica in internet può essere sanzionato con una sanzione penale e quindi rischiare di finire in carcere. In questo caso 2.600 euro della multa erano per non farsi 2 mesi di carcere, cos'era? Sì, esatto, 2 mesi e 10 giorni, quindi in sostituzione della pena detentiva. E sempre sul fronte del peer-to-peer, vediamo un attimino come si sta evolvendo invece la situazione negli Stati Uniti, dove la repressione è iniziata già questa primavera e poi in maniera più forte quest'estate. E Patti Sant'Angelo, che fa parte di quel gruppo di mamme americane, sono state riassunte in questo modo, comunque un utente di internet che si è visto combinare multe pesanti in primo o in secondo grado addirittura, e per cause portate avanti dalla RIA. E dunque questa Patti Sant'Angelo ha attivato una raccolta fondi appunto per sostenere le sue spese legali e ha ottenuto un discreto successo raccogliendo oltre $5.000 per sostenere le proprie spese legali. E dice no. Jones Network, direttore di P2PNet, che è promotore dell'iniziativa della raccolta fondi. Il fatto che Patti Sant'Angelo non è solo una persona senza soldi, ma incarna ciascuno dei milioni di persone che usano i sistemi di file sharing a loro rischio e pericolo. Sostanzialmente Patti Sant'Angelo ha incontrato già una notevole solidarietà, perché nel giro di tre settimane più o meno ha raccolto circa $5,000 per le sue spese legali, proprio per l'aiuto di almeno 300 persone che hanno sostenuto attraverso il sito peer-to-peer, cioè P2P net, e un altro sito che si chiama era scritto sopra, Ale, se puoi muoverti un attimo, ecco, si chiamava Boing Boing. È possibile donare dei soldi e aiutare Patti Sant'Angelo nella sua causa contro la RIA, che sicuramente dispone di avvocati e di risorse finanziarie che non sono quelle che dispongono la media degli utenti normali di internet. Chiudiamo questa parentesi sul peer-to-peer, aggiornando la notizia che avevamo dato un paio di settimane fa sulla legge pro peer-to-peer promulgata in Francia a fine anno. Come previsto, la legge è stata modificata, non esiste più quel canone di cui avevamo parlato sul modello EFF, quindi un canone per cui è possibile scambiare qualsiasi tipo di informazione anche coperta da copyright attraverso reti peer-to-peer per uso personale, pagando una specie di, appunto, tassa di pochi euro mensili. Esatto, prima fossero 13 euro, una cosa del genere. Viene sostanzialmente recuperata una visione molto più tradizionale del copyright, quindi di fatto è comunque vietato distribuire materiale protetto attraverso reti peer-to-peer. Diciamo che, a differenza della legislazione italiana, è un po' più morbida, nel senso che prevede delle segnalazioni, comunque un grado di degli avvisi, si prevedono sia degli avvisi, e poi successivamente, quando questi avvisi vengono ignorati, che sono sia avvisi di tipo telematico, ovvero sia via mail, sia addirittura si può arrivare a delle lettere presso il domicilio con, appunto, la minaccia di azioni legali. E comunque, nel caso di azione legale, la multa si parla di dai 300 ai 1500 euro di multa in caso nel caso di coloro, appunto, che ignorino questi avvisi. E comunque, a differenza dell'Italia, si tratta di pene amministrative, quindi classica multa, e non di regime penale come invece è in Italia o negli Stati Uniti. Questa legge francese è il recepimento della direttiva europea EUCD, che, come appunto, era la direttiva europea italiana di un paio di anni fa, appunto il famoso decreto Urbani, e ha la caratteristica di, comunque, di andare in una direzione un attimo diversa da quella italiana, totalmente asservita alle major, in quanto viene definito la possibilità di copiare per un numero limitato di volte, ma comunque deve essere possibile copiare i contenuti multimediali acquistati in internet, ad esempio dai servizi di vendita di MP3 online, come potrebbe essere quello di iTunes. Appunto, questi sistemi dovranno, per poter funzionare sul mercato francese, modificarsi e permettere che appunto il formato non sia più proprietario, ma sia possibile, ad esempio, trasportare questa canzone comprata su iTunes su un player MP3 diverso da quello prodotto dalla Apple. Quindi una mezza vittoria dei formati aperti, mettiamola così. Cosa che attualmente invece non è possibile fare se non attraverso una forzatura del sistema DRM della Apple. Finger is Allora, passiamo adesso a dare delle notizie che riguardano invece la Apple, una delle case che sta particolarmente simpatica a un nostro caro amico Andrea Gelmini, che recentemente ci aveva fatto una bella recensione del nuovo iPod video, che non permette di in modo semplice e intuitivo di guardare film a meno che non li compri direttamente da iTunes. E proprio iTunes è l'oggetto di protesta in questi giorni di diversi utenti che hanno aggiornato il software alla nuova versione, la 6.0.2.23 per la precisione, che include al suo interno una gestione particolare di le funzioni che già c'erano, di raccomandare tracce audio e album in relazione alla riproduzione selezionata, ma in questo caso non è una semplice raccomandazione interna al sito della Apple, ma è stato scoperto che passano dei dati attraverso iTunes che arrivano a una società di marketing, la Omniture, che andrebbe a vedere, insomma, in qualche modo quali sono le preferenze degli utenti, e questa è una violazione della privacy perché in nessun modo è segnata sulla licenza dell'utente finale questo passaggio verso il sito esterno della Omniture. In pratica iTunes ricalca le tracce del Windows Media Player, che applicava le stesse identiche tecniche tramite appunto di raccolta di informazioni che poi venivano rivendute più o meno sotto banco a società di analisi e di marketing. La funzione aggiuntiva, appunto quella si è chiamata Mini Store. Quando appunto questa funzione è abilitata, si notano, analizzando il traffico che questo software produce in rete, appunto delle informazioni che vengono passate a appunto questa Omniture, oltre che a delle informazioni che vengono passate alla Macintosh. Una bella violazione della privacy degli utenti, che appunto vedono le proprie playlist e i propri file preferiti vengono appunto segnalati senza alcun avviso a delle entità commerciali. E facciamo uno stacco musicale. Allora, oggi presentiamo solo un aggiornamento per chi non volesse, che comunque vuole evitare, sta utilizzando iTunes questo passaggio di dati, può semplicemente chiudere la funzione Mini Store, che permette quindi che è l'unica funzione di iTunes che utilizza questo passaggio di dati, e quindi chiudendo la funzione Mini Store non viene violata la privacy, a quanto pare per ora. Scusa se ti ho interrotto, ho dimenticato di dirlo prima. Allora, il sito che presentiamo è un sito di un'etichetta digitale, cioè via internet, comunque un'etichetta virtuale. Si chiama Black Sweet White Cat. È un gruppo di weblog che raccoglie brani musicali all'insegna appunto della musica copyleft, e in difesa appunto della libera diffusione della musica, dell'arte in generale, e per la distribuzione via internet. Allora, il brano che andiamo a sentire è di Lona, un autore francese. Sul sito è possibile scaricare l'intero brano tramite BitTorrent oppure ascoltarlo tutto via streaming, e questo è il brano Crepuscule. Thank you. Scusate, prontissimi alla fine della canzone. Alla fine della canzone, pronti a starnutire e tossire. No, era una bella canzone, quindi ci siamo persi via. Allora, comunque, il link del sito è biotic.blogspot.com. Li trovate, oltre al progetto appunto di pubblicazione musicale, anche quello riguardante pubblicazioni artistiche in generale. Abbastanza articolato comunque come blog, con tutte le recensioni, gli artisti, bello, fatto proprio bene. E poi i brani pubblicati sono parecchi e penso che siano dei blogger francesi principalmente, perché la maggior parte della musica appunto è di autori francesi. Craccherò HD, DVD e Blu-ray. Questa dichiarazione arriva da niente po' di meno che DVD John, ovvero colui che aveva spezzato i lucchetti dei DVD e ha detto che sarà pronto a craccare anche i nuovi sistemi di protezione che ci saranno alla base di HD, DVD appunto e Blu-ray, che saranno i nuovi formati che arriveranno nei prossimi mesi. Forse. Ma il mio DVD non ha i lucchetti sopra. Vabbè, insomma, dai, hai capito che cosa mi stavo riferendo. Io sì, ma tanto che facciamo una trasmissione, magari. Sì, ma era appunto per creare diciamo così, una sorta di immagine che tutti possano capire. Il DVD è un... Perché questi lucchetti infatti ci sono. Sotto forma dei formati di criptazione con cui sono stati salvati ad esempio i DVD. I DVD quando erano usciti volevano appunto poter vendere un DVD in Europa a un prezzo, il DVD in Africa a un altro prezzo, il DVD in Indonesia a un altro prezzo ancora, e allora si sono inventati le zone, ovvero sia dei modi di criptazione diversi, in modo che uno non potesse comprare il CD in Indonesia, pagarlo un euro e guardarsi il film in Europa. DVD John, anni fa, quasi 5 anni fa appunto, aveva preso questo sistema di criptazione molto blando per in verità, e era riuscito a capirne il funzionamento. Aveva prodotto un tool che si chiamava DCSS. Questo tool ha permesso di utilizzare i DVD in una maniera molto più libera rispetto a prima, ad esempio permettendone la fruizione sotto sistemi operativi liberi tipo Linux, FreeBSD. E niente, nella prossima generazione di DVD, i famosi Blu-ray o gli HD DVD, che ecco, verranno... non abbiamo mai parlato di questa querelle tecnologica, perché appunto è una cosa poco interessante generalmente per gli utenti. Comunque si ripetono le stesse dinamiche che allora erano avvenute col DVD, nel e tentativo che di scegliere. Anni prima ancora erano avvenute tra il VHS e il Betamax. Insomma. Come al solito, tra l'altro, lo sapete perché è passato il VHS rispetto al Betamax? Non è una leggenda. Perché la Sony faceva pagare le royalties sul suo brevetto per le apparecchiature hardware che venivano a costare di più di quelle prodotte dalla Sony. Invece no, la vera motivazione è che il VHS all'epoca riusciva a coprire 45 minuti e riuscì a mettere su VHS il famoso film Gola Profonda, un film porno. Erano le storielle che raccontavano quando era piccolino. Ha venduto milioni di copie e di fatto è diventato uno standard il VHS. No, è interessante, cioè ci sono molti libri della storia della tecnologia, questa storia. Non l'ha inventata, l'ho studiata all'università, lo giuro. Sì, come leggenda. No! È chiaro che un film non può fare la differenza nella scelta di una tecnologia piuttosto che un'altra. Vabbè, stiamo divagando completamente. Il fatto che su un supporto ci sia l'intero contenuto di un film o no, le Betamax all'epoca non coprivano così tanto di spazio, cioè non riuscivano a durare così tanto, mentre invece il VHS riusciva a contenere quasi un intero film, o comunque sicuramente un intero film porno, visto che durano di meno, ha fatto la differenza. Non durano di meno. Mi hanno detto che... Vabbè, durano... Andiamo avanti. Senza divagare. E appunto niente, DVD John, questo simpatico ragazzo norvegese, svedese, non mi ricordo, finlandese. Non so ricorda nessuno. Non comunque. So ricorda nessuno di noi. E norvegese, perfetto. E appunto ha promesso che cercherà di rompere il nuovo formato di criptazione, che questa volta si chiama AACS. E come prima mossa nell'attaccare questo formato di decrittazione ha registrato il dominio DAACS, appunto dicendo che l'altra volta quando ha creato il software DCSS si era dimenticato di registrare il dominio, e quindi quello poi era stato sfruttato da altra gente per scopi commerciali e roba del genere, mentre invece adesso con il DAACS si è già comprato il dominio, e quindi entro breve potremo andare a vedere, magari già troveremo il modo di decrittare questi nuovi formati DVD, magari prima che compaiano sul mercato. No, questo ha già detto di no, ha detto che sarà disponibile quando saranno disponibili anche i supporti. Anche perché lui non fa spionaggio industriale, ma semplicemente si limita ad analizzarne il contenuto e a vedere se riesce a leggerlo in un altro modo. Vedremo, vedremo. E poi un paio di notizie che riguardano invece la censura. No, sì, invece sì, sono veloci. Skype ha annunciato che censurerà le telefonate in Cina. Skype è un software che permette di telefonare via internet. La Cina è sicuramente uno dei paesi di cui finisce più spesso alla ribalta per le posizioni, diciamo così, di censura nei confronti degli utenti di internet, e quindi la notizia forse non dovrebbe stupire. Però in realtà stupisce come molte multinazionali, da prima Yahoo, poi Microsoft, o forse l'inverso, prima Microsoft e poi Yahoo e adesso anche Skype, si piegano alle volontà di questa repressione della libertà di espressione. Le regole del mercato cinese sono abbastanza chiare. Il governo dice: noi abbiamo 1,6 miliardi di potenziali utenti, se volete entrare nel nostro mercato dovete stare alle nostre regole. In pratica il sistema coprirà automaticamente con un miagolio o con un calo di voce le parole proibite delle telefonate via VoIP. Questa è una leggenda. Ma c'è scritto. No, c'è questa cosa del pare gatto. Che sia vero. Comunque, vabbè, ovviamente la notizia è seria, abbastanza ridicolo il dettaglio. Vabbè. Censura anche negli USA, censura di cui già si era parlato negli scorsi mesi. Comunque pare, anzi, è stata creata una task force al Pentagono che supervisionerà il contenuto dei blog che i soldati in Iraq compilano più o meno giornalmente. Questo ovviamente per ridurre il numero di notizie che dall'Iraq arrivano poi in tutto il mondo, ma in particolare negli States. Appunto, questa task force supervisionerà il contenuto dei blog e avrà ovviamente potere di intervenire sulla chiusura, la modifica di questi blog. Quindi vabbè, alla fine non molto diverso dalla pratica cinese sulle telefonate. Di blog ne parleremo anche più avanti. Andiamo a parlare adesso di Mupa. Che cos'è Mupa? Mupa, vabbè, è un sito, è la sigla dell'officina multimediale pavese, www.mupa.it. Ne parliamo perché recentemente ha pubblicato un bello opuscolo che si intitola Avviso ai naviganti. Vabbè, il link esatto è www.mupa.it /node/128, che è, vabbè, è l'articolo con cui loro pubblicano questa cosa. Una guida da consigliare, fatta abbastanza bene anche dal punto di vista grafico, molto divulgativa, ricca anche di link per approfondimenti oppure di link che riportano l'origine delle informazioni. Allora, sì, ce l'hai tu sotto mano, quindi tu adesso ci racconti. Ecco, però, mi ero perso via anche a leggerlo in questo momento. Proprio. Beh, è abbastanza carina perché parte da un approccio storico di come sono nate le nuove tecnologie, internet, e dopodiché ne parla da un punto di vista teorico, cioè pratico di tecnologia, ma sempre restando, non addentrandosi mai troppo nei dettagli. E dopo comincia a analizzare i vari punti di vista dell'utilizzo delle nuove tecnologie oggi, passando dai pericoli che possono essere i virus, gli spyware e quant'altro si possono trovare in internet, passando poi attraverso i crimini che possono essere svolti in internet, e andando poi a tirare il discorso sul copyright e sulle licenze in generale. È un libretto molto carino, con appunto, come diceva Alessandro, molto divulgativo, con degli schemi molto chiari e degli ideogrammi, no? Dei diagrammi, sì, dei sì, disegni, diagrammi. Dei disegni appunto decisamente belli, esplicativi, e appunto va poi anche a analizzare bene tutta la questione del punto